un po' nervosa, la mano scivola, così ti sfiora, piano continua, piano continua, resti sdraiata nella tua camera, tutta confusa, nessuno lo saprà, nessuno lo saprà, sognerai. Alle lenzuola, così sudata, ti senti viva, sei così viva. Come un'onda non ti travolgerà, non ti travolgerà. Sognerai le cose che non fai.